Non si può restare solo a far finta di star bene. Si diffonde quell'amaro che mi circola nel cuore da un amore programmato. Se lo hai preso per un gioco, non ti resta che parlare. Ci sarà una soluzione. Sono stanco di soffrire e star male per amore. Tu vallo già ma dimmi che trovi e fornude. Se ti chiederà cosa avrò fatto di male, tu rincerà la verità. Cadurindo cade vieno sulla merla da sapere la vaganda si appartamento dove tutto era scontato, dove il cuore è imprigionato. Tu vallo già ma dimmi che trovi e fornude. Se ti chiederà cosa avrò fatto di male,